Film Busters. Comunque la disc funziona uguale per tutti, quindi fai una partizione. Frammentami. E quindi, come avete capito, siamo giunti alla nuova puntata di Filmbusters. Sì, esatto, siamo ancora vivi, nonostante lo stupore di Intrinseco. Puntata numero 25, appena ricontrollato. Intanto abbiamo cambiato la grafica, ci siamo resi partecipi di una puntata speciale in diretta degli Oscar, veramente orribile, demenziale, sconsigliabile, tant'è che ha smorzato l'entusiasmo, almeno il mio, non so il vostro. Fatto sta che torniamo dopo... Sono 3 settimane che dormi. Sì, io sono 3 settimane che ancora non mi riprendo, esatto. Fatto sta che dopo il periodo bello ciccione prima degli Oscar, con grandi uscite, Django, Lincoln, eccetera eccetera, c'è stato un periodo un po' di magra e forse anche per questo comunque abbiamo rallentato il ritmo della pubblicazione del podcast. Fatto sta che il Monco, che è qui con me, saluta tutti quanti. Ciao a tutti. Il Monco è anche Intrinseco, ovviamente, che non ha nascosto il suo stupore per questo ritorno sulla scena del podcast italiano. Ciao. Sentito l'entusiasmo del cuore intrinseco. Ricordiamo che oggi è stato anche assunto il Monco. No. Come no? Non ti hanno assunto. È uno stage. Nel momento che ho detto che è uno stage io stavo ascoltando la prova. È ancora dormendo per gli Oscar. Vabbè. Sì, io... uno stage, ma inizia all'8. Però mi hanno detto, vieni già, vabbè sarà pericoloso. Ti starò sfruttando, insomma. No, ma lo faranno anche durante lo stage, quindi niente, non c'è problema. E vabbè, dai, devi sorbirti questo periodo. Fatto sta che volevi farci un riassunto dei film che ci siamo persi per strada in queste 3 settimane di silenzio. E quindi dai, spara le tue cartucce finché puoi, perché dopo è una puntata intrinsecocentrica. È vero, questa doveva essere la mia, quella prima, visto che erano tutti e 3 i miei film. Invece Intrinseco si è inserito a gamba tesa, ha fatto venire la febbre a Alex Diro, ha fatto una magra nei cinema. Bravo, complimenti. Vergogna. Esatto, vuoi dire qualcosa? Sì. Parliamo del lato positivo, che Alex Diro vedrà questa sera, quindi nel montaggio si inserirà con un piede di porco. No. Sì, faccio la voce fuori campo. Sì, il lato positivo, candidato a X Oscar, perché ormai gli Oscar ce li siamo già dimenticati. Chi li ha vinti? 8 Oscar, 4 solo per gli attori, questo lo ricordo. Poi la regia, film, sì? Mm-hmm. Sì. Vabbè, molti di questi regalati, tipo regia... l'ha visto, Intrinseco l'ha visto, sì. Sì. Regia proprio da Oscar, eh? Vabbè. Vabbè, per una commedia va bene, ma va bene. Sì, infatti, visto che sono stati fuori Tarantino in co, vabbè. E Anderson, ricordiamolo sempre e comunque. E niente, il lato positivo, sarà che l'ho visto 3-4 settimane fa, visto che l'ho visto in lingua originale, visto che l'ho visto, però non mi ricordo già più granché, segno che non è stato sto filmone. A proposito di Anderson, avevano detto che The Master era una vetrina per attori, che non era niente di che il film, ma c'erano attoroni. A me sembra che questa definizione vada bene per il lato positivo, cioè si basa tutto sulle due buonissime prestazioni di Jennifer Lawrence, che ha vinto l'Oscar, simpaticissima, è pure caduta, ricordiamo, e ci ha un po' svegliati durante quella serata, e Bradley Cooper, ma anche Jackie Weaver e De Niro. Insomma, De Niro fa sempre la stessa parte da ormai 25 anni, però sono tutti bravi attori. Chris Tucker, è il più bravo di tutti. Chris Tucker, che se andate a vedere su IMDb ha fatto Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3, 12 anni di pausa e poi ha fatto Il lato positivo. Si è dovuto preparare bene per questo film. Infatti non è che recita la parte del malato di mente, è proprio stato in clinica tutto questo tempo. Esatto, esatto. Spoiler per Alex Diro. E niente, è una dramedy, un po' drama perché c'è di mezzo la pazzia, però la pazzia è anche simpatia, no? Questo pazzariello che di Bradley Cooper, che non può sentire la stessa canzone che ricorda la sua moglie, che è stata trombata da un suo collega, e poi che dice sempre Excelsior, che trama riassunta in due righe. E, insomma, si ride, si pensa, si ha un po' di compatimento per questi personaggi fuori dagli schemi, fuori dalla sanità. E poi c'è questo bel finale, almeno è la cosa che mi è piaciuta di più, che ricorda pesantemente, come hanno fatto notare molti, il finale di Little Miss Sunshine. Che altro da dire? Non riesco a capire perché sia stato così nominato, visto che vabbè alla fine non ha vinto granché, però c'erano altri film migliori e in fin dei conti davvero dimenticabilissimo, a parte Paraculo per certe scelte. Ma intrinseca... mi sembra che, sì? Mi introduco un attimo a gamba tesa, mi sembra che ha riscosso un sacco di successo, non so se al Sundance o al Toronto Film Festival, uno dei Toronto. Due. Mi sembra Toronto. Che da lì insomma era partita la scia di riconoscimenti e di nominations che ha portato agli 8 Oscar, quindi immagino che sia per quello. Mettiamo. Si sono affidati sulla fiducia, hanno detto vabbè, l'hanno nominato a Toronto, allora è un bel film. Vabbè, ma quest'anno andavano queste storielle, no? Le volemo se bene, siamo malati, ma comunque stiamo bene. Non credo sia così simpatica la sindrome bipolare, comunque. No. Forse è vita di pi questo. Dici. Fermati. Mi stavi dando la parola un attimo fa. Lo so, ma sei infilato lui, mi ha fatto venire in mente delle cose. Veloci, eh? No. Mi sembra che anche l'Independent Film Award abbia stravinto, battendo tra l'altro quello delle bestie selvagge, quindi anche lì. E poi ecco, bipolarità, se avete fatto caso in tutte le interviste qualsiasi attore o membro del cast dice di avere un parente con la bipolarità e tutti si mettono a piangere ricordando questo parente, non so. E poi a proposito della regia, sì, non è granché, però in alcune scene, soprattutto di ballo, è molto dinamica, mi ha ricordato quella di The Fighter, sempre di David O. Russell, anche se sono temi completamente slegati. Chiudo con questo, vai. Non lo so, non so più cosa dire. Ecco. Sì, vabbè, brava lei, non bravissima. Io l'Oscar, vabbè, lo ripeto ogni volta, l'avrei dato alla Chastain, a lei gliel'avrei dato per Un gelido inverno, dove mi ha colpito molto di più. L'impressione qui è che sia più simpatica che brava, e a volte conta più questo, ma vabbè. È divertente da vedere, specie quando fanno footing e lei arriva ogni volta urlando, mi è piaciuto. Sì, poi la regia, ecco, la scena di ballo, ma una in particolare, quella più importante, diciamo, senza spoilerare, prima del ballo in generale c'è una, non piani di sequenza, comunque inquadrature belle lunghe. Sì, insomma, una regia buona, ma se appunto, di nuovo, il prezzo è escludere i due Anderson e chiunque altro meritasse di più, cioè, non ha senso. Ma questi Oscar non hanno senso, quindi vabbè. Sì, no, gradevole, non mi interessa, cioè sì, facevo la battuta sulla leggerezza con cui tratta l'argomento, però è una commedia. No, è un po' indeciso, perché a volte va un po' sul dramma, con certe musiche, certe scene, quando De Niro diventa un po' pesante come figura paterna, però in generale ecco, non si decide troppo, è un po' commedia, un po' dramma, alla fine boh, riesce, ma niente di che davvero. Insomma, stonava un po' negli Oscar, ma non è l'unico, quindi passiamo oltre. Allora, il grande potente Oz, che ha visto Alex Diro, sì? Sì. E sì, vai? Sì. È l'unico della giornata? Vabbè. No, introducilo tu, dai, che sei... Sì, sì. Che hai scritto anche la recensione. Sì. E che comunque sei legato sentimentalmente al film degli anni 30. Esatto, legato moltissimo al film del 39, ho sempre promesso a me stesso di non andare a vederlo, alla fine vabbè, ho ceduto, volevo vedere cosa aveva fatto Raimi, Non è la merda che mi aspettavo. Ha alcune trovate molto buone, molto raimiane per certi versi. Ha un bellissimo inizio, mi veniva da dire originale, ma no, è identico all'originale. Ha solo quella trovata di allargare lo schermo che è bellina. Ha una parte centrale noiosetta perché devono sempre metterci lo scontro epico, la costruzione di questo scontro, che non ne frega niente a nessuno. Guardate l'originale, si risolveva con una bottiglietta d'acqua, vabbè. E soprattutto c'è quella parte molto Alice nel Paese delle Meraviglie che mi ha dato parecchio fastidio, perché per il resto è fatto veramente molto bene. Sì, il mondo di Oz, la città di Smeraldo, la collina dei papaveri. No, la collina dei papaveri è un'altra cosa, il campo dei papaveri. Pronto? Sì. Sì, sì, vai. Non ho sentito più niente sotto, ok. E quindi mi ha stupito anche da quel punto di vista. Mi aspettavo un Alice 2, come scenografie per modo di dire, perché sono tutte finte, ma scenografie in CGI. Invece no, belline. Però appunto un film di 2 ore e passa, io non so come abbiano fatto i bambini a reggerlo, perché è pesantino nella parte centrale, non arriva più la fine, e poi si riprende nel finale con un bel omaggio al cinema, all'illusione del cinema, e anche un omaggio, una citazione alla testona di Oz nell'originale del 39. Spero che con quei soldi che ha guadagnato, perché in America Oz è andato benissimo, Raimi possa fare altri film alla Drag Me to Hell e che non faccia più sta roba. Non so perché continuano a dargli i blockbuster, ma no, perché lui accetti di fare i blockbuster, vabbè sì, per i soldi, ok, ma faccia cose più personali, perché qui, a parte quelle scenette alla Raimi che sono veramente poche, soprattutto quelle legate alle streghe, ma non so tu cosa ne pensi. Poteva farlo chiunque, dal peggior Barton all'ultimo dei mestieranti. Però ripeto, sì, sì, poteva essere molto peggio questo film. Alla fine non è sufficiente, se proprio bisogna dare un voto, ma anonimo, ma sì, anonimo, ma neanche pessimo, è lì, né carne né pesce, niente. Cioè, che secondo me soffre un po' dello stesso difetto di cui soffriva anche Alice in Wonderland, ma molti dei fantasy attuali, che non ci sia dietro un... Cioè, secondo me in un fantasy è fondamentale avere un solido background dietro. E qui sembra... La sceneggiatura sembra che detti le regole nel mentre si il film scorra sullo schermo, insomma. E non sembra che ci sia una storia dietro. Sembra che anche gli attori, quando recitano le proprie battute, non sono molto convinti di quello che stanno dicendo, insomma. Il trailer lasciava intendere che ci fossero magari più momenti comici, slapstick, ad esempio quando l'attore principale, James Franco, interrompe, sì, i soldatini canterini, insomma. Però fortunatamente, insomma, non si vira mai su quel fronte, anzi, sì, come dici tu, è un po' anonimo, cioè, soffre anche un po' di crisi di identità, non spinge mai su nessuna componente, è un po' un pasticcio che sì, dal punto di vista visivo è efficace, sicuramente più efficace di Alice in Wonderland. Ci sono sempre le solite scenette da film 3D, ormai filmati su YouTube, al riguardo si sprecano, quindi per rendervi conto di quello che stiamo dicendo basta guardare uno di quelli. E niente, alla fine detto tutto, insomma, deboluccio, parecchio anonimo, sì, non è brutto quanto Alice in Wonderland, però non so nemmeno se era lecito aspettarsi di più, perché forse le aspettative erano talmente basse che ritrovarsi in mano qualcosa che semplicemente non è brutto, qualcuno vorrebbe anche gioire. Però ho visto anche che le recensioni della critica sono state abbastanza tiepide, mentre invece dal punto di vista degli incassi sta andando molto meglio. E niente, però spero solo che non partano sequel, prequel, eccetera eccetera, insomma, anche se gli incassi lasciano pensare il contrario. Concordo sul fatto che Raimi, insomma, non si dedicasse a cose più piccole, perché poi quando torna sul terreno che gli è più congeniale, che è quello dell'horror, gira le cose migliori della sua carriera. Quindi boh, lasciasse perdere il fantasy. Fortunatamente gli hanno tolto dalle mani il progetto del, del film di World of Warcraft. E quindi, insomma, quindi non si sa in che cosa si cimenterà il buon Raimi. La cosa, il cameo di Bruce Campbell mi è sfuggito, forse perché ero poco attento. È una delle guardie alla porta della, della, come si chiama, della città di Smeralda. È quella con cui litiga il nano che gli tira la mazzata in testa. Ah, ecco, sì, avevo il sospetto che fosse lui, però insomma, anche lì sotto chili e chili di make-up, quindi... Sì, c'ha un mentone, ah no, il mentone c'ha già, no, sì, sì, anch'io all'inizio ho stentato a riconoscerlo, però mi fa strano che abbia fatto solo quella particina, forse l'ho perso in altre parti, lì si vede bene, cioè l'ho riconosciuto almeno. Ma tu l'hai visto in 3D? No, l'ho visto in 2D, però le scene che sembrano fatte apposta per la stereoscopia sono evidenti, insomma, ci sono due o tre scene con... Esatto. Cioè, sembra quasi che esca dallo schermo anche se è in 2D, insomma. Mm-hmm. E un po' cagne le tre attrici protagoniste, non lo so. Mila Kunis, vabbè, non è che mi aspettassi grandi cose da lei, però la Wise, ad esempio, che di solito fa... belle interpretazioni, qui mi è sembrato un po' fuori posto, e Michelle Williams, vabbè, lei è una fatina per definizione, quindi forse è quella delle tre che si è trovata meglio in questo ruolo, però le altre due parecchio fuori posto, insomma, anche il ruolo di Cattiva Luisa dice, forse il ruolo di Villain non le si addice nessuna delle due, né alla Weitz che alla Mila Kunis, insomma, che poi lei sotto chili e chili di make-up anche lei, appunto. No, appunto, la Kunis per metà film è coperta, quindi non saprei cosa dire di lei. La Wise invece la faccia stronza più o meno ce l'ha, solo che sì, sembra che fa il compitino, gliene frega niente. Anche lì anonime, non mi sento di bocciarle. Hanno fatto roba migliore, di certo. Hanno recitato meglio nel passato. Intrinseco non l'ha visto, vero? No, non sono un fan dell'originale, però mi sono rifiutato per Raimi e per il film. Vabbè, te sei perso niente. Esatto. Passiamo invece al film che il Monco ha già eletto come migliore del 2013, nonostante siamo ancora a fine marzo, ovvero Spring Breakers. Madonna, già polemica, no? È diverso. Ho detto film dell'anno, che non è il film migliore, il film... esempio dell'anno, sì, vabbè, sì, lo aspettavo come il messia, ne hanno parlato benissimo qualsiasi critico, dai più snob ai più Marco Giusti della mostra di Venezia, anche a Toronto ha convinto tutti, soprattutto a Venezia ha svegliato un festival che stava dormendo. Non ha vinto, ma secondo molti è stato il vincitore vero della manifestazione. Finalmente è arrivato, l'abbiamo visto in anteprima perché mi sembra che in America esca tra un paio di settimane, no? Insomma, esce adesso con la primavera. E vabbè, grande ritorno di Corinne, questo Gene Ashton che ha la sua prima regina, che ha fatto solo... videoclip, come si chiamano i rap? Ice-T, no. Ice Cube, Ice... non è esotico. Tommy B e Carolino, e quella è un'altra cosa, che stai a dire? E questa regista, soprattutto, questa donna, vabbè... questa donnaccia. Sì, io non so che film hanno visto, abbiamo visto comunque, il gruppo. Scusa, ti interrompo, sì. È uscito già in America. Ah, 24 marzo e in anteprima in certe sale il 15. Ah no, perché vedevo Franco da Letterman che lo presentava, o sbaglio? Boh, non so se è sbagliato in IMDb, comunque, dice 22 marzo. Tanto c'è anche un simpatico retroscena sul fatto che Corinne non fosse al David Letterman Show, E dice? Dice, c'era Franco che gli ha chiesto, insomma, perché Corinne fosse stato bandito dal Letterman Show, e Letterman ha svelato che Corinne fu ospite per 3 interviste nell'arco tra il 97 e il 98 per pubblicizzare Gammo, un altro film che non mi ricordo di cui non mi ricordo Kids, sì, probabilmente, e un libro che ha scritto in quel periodo. E sì, nella quarta intervista c'era anche Meryl Streep ospite, e Letterman andò nel camerino della Streep per salutarla e trovò Corinne che frugava nella borsa di Meryl Streep, cerca di... E quindi gli ha detto, guarda, lascia perdere, leva le mani e vattene, insomma, l'ha bandito dalla trasmissione. Però dopo questa apparizione di Franco, insomma, sembra che Letterman... ha aperto a un chiarimento con Corinne e quindi probabilmente lo inviterà di nuovo nella sua trasmissione. Non è che l'ha bandito perché per 3 volte è venuto fumato in trasmissione. Sì, no, sicuramente era fumato. Franco ha detto che sicuramente era fumato in quel momento, quindi... No, ma quello è concesso, andare in... Però ha detto che è un pezzo di pane, è una gran bella brava persona, nonostante ogni tanto esageri con le droghe. È bravo, dai. Ecco, questo... Sembrava così tranquillo quando l'ha intervistato Giusti. Sembrava. Sarà che è cresciuto un po' nel frattempo. Sembrava proprio una persona a modo. Vabbè, l'abbigliamento giovanile, però era normale, diciamo. È aumentata la tolleranza. Sì, è subentrata l'apatia. Ricordiamo quello che disse Giusti. Fucking crazy. Così disse proprio. Ok. Saluto Marco Giusti, nostro fan, e noi fan di lui. Ci scambiamo i gagliardetti, insomma. E, ecco, questo era il contesto che introduce Corinne e Spring Breakers. Spring Breakers sappiamo tutti, non faccio neanche in questo caso il riassunto della trama. È un tipo di film che può ricordare un American Pie, però se il regista è uno che frugava nella borsa di Meryl Streep, è ovvio che non può essere un American Pie. E niente, molti giovani che sono andati tutti a vederlo, perché c'era Selena Gomez, c'era Vanessa Hudgens o Hudgens o quello che è, sono andati a vederlo e sono rimasti delusi, perché questa scena a rallentatore, Britney Spears, fucile a pompa, chi è? Non mi sto sentendo adesso. Sì, no, adesso ti sento, no, ci sono dei problemi, vabbè, però adesso forse vai. No, è perfetta la recensione sconclusionata per un film di Corinne, perfetto. E niente, si sono ritrovati di fronte a un film fuori dagli schemi, provocatorio, perché alla fine è stata una bella provocazione, non solo per mettere le attrici di Disney Channel in un film del genere in cui si pippano cocaina, non si denudano mai purtroppo, a parte una scena nella piscina che comunque non si vede niente, a parte la moglie di Corinne che mostra tutto quello che può, ma lì non è fregato niente a nessuno. E sì, in effetti, sono nati per le altre, non per la moglie di Corinne. E poi è provocatorio per quel finale bellissimo che nessuno ha capito, perché tutti, senza spoilerare, hanno detto, ah, ecco, Corinne mette il messaggio positivo, la crescita delle ragazze. No, anche quella è una presa per il culo, non è possibile che finisca in quel modo. Però anche lì si lamentano di un finale inverosimile, ma non... No, sì, non si lamentano di quello, perché dicono è il giusto finale, ma si lamentano delle inverosimiglianze che ci sono, per esempio le ragazze che riescono a sparare o che rubano una Lamborghini, quello gli dà fastidio, non so, è un film che non è stato capito dai giovani, è un film dei giovani, sui giovani, fatto da un giovane che ormai ha 45 anni, ricordiamo, povero Corinne. Lo spasso maggiore è stato leggere davvero i commenti, il film è una bomba, non trovo un altro aggettivo, non è un capolavoro. Niente, io dicevi che non è il capolavoro, vai. Eh sì, mi sono perso 3 volte. Ok, insomma è una bomba, è durato poco nei cinema, non riuscirete a vederlo. Compratevi il Blu-ray assolutamente, perché ha una qualità video terrificante, cioè tutto basato su luci, suoni, colori, effetti visivi che sembrano fatti con Photoshop, con i filtri artistici, però sono bellissimi. È riuscito a fare un gioco di rallenti, di luci, della musica di Skrillex, cioè persino quella merda di Skrillex messa in un film del genere diventa un tutt'uno, in questo modo è un capolavoro. Non so, è meraviglioso, mi è davvero piaciuto tantissimo, mi sono divertito, è una bomba, basta, vai intrinseco. Ma lui non l'ha visto? No. Mamma mia. Che sei venuto a fare oggi? No, a reggere la baracca, io reggo. Va bene. Sì, io sono molto meno entusiasta, diciamo, mi è piaciuto con molte riserve. Intanto non mi è piaciuto perché secondo me è un film di grande compromesso, cioè sarà che quel giorno ho visto Trash Humpers, che è la cosa definitiva per un regista del genere, vedere questo che appunto mi sembra un compromesso con la cinematografia più classica è stato un po' deludente, ecco, mi aspettavo più di più. È un bel film da vedere, sorprendentemente, perché non è che gli altri film fossero brutti da vedere, è che non puntavano a certe scelte estetiche che invece qui sono presenti. È un film hollywoodiano, la nuova Hollywood, non quella proprio a grande budget, però è un film canonico nella forma. Mi ha ricordato molto, ed è per questo che mi è piaciuto, mi ha ricordato molto Drive, tra l'altro c'è Cliff Martinez nella colonna sonora, oltre a Skrillex, che era anche in Drive. E le musiche ricordano molto, e anche l'atmosfera atemporale, cioè lo stagnare di queste musiche, di queste scene, non si muove nulla, sembra di guardare Drive, solo che lì era bello, era l'amore tra i due, qui è il vuoto di questa vita. E poi Enter the Void, perché c'è, insomma, il direttore della fotografia, non mi ricordo come si chiama, comunque lo stesso, e si vede molto anche qui, e da qui viene il problema, tra virgolette, cioè quello che c'è di bello non è Corinne, per me, cioè quello che mi è piaciuto di più non è coriniano. Quello che c'è di suo è sì, è divertente, però non è corrosivo come poteva essere un Gammo o di nuovo un Trash Humpers o un Julian Donkey Boy, è molto ripulito, la cosa che non mi piace è che è un po' a metà tra la provocazione e il film che vuole davvero parlare di questa generazione. Lui lo faceva anche con Gammo, però non sembrava si prendesse così sul serio. Qui racconta queste ragazze, ti fa la morale, nel senso che ti racconta questa assenza di tutto, facendogli ripetere le stesse frasi, ripetendo le stesse situazioni, insomma, il nulla cosmico, però ecco, sembra quasi che voglia dirti, ah, questa generazione è così, invece lì era un semplice mostrarla, cioè era un po' neorealista il primo, Corinne. Questo è appunto il cinematografico, e quindi c'è un po' il messaggio, c'è un po' la cosa e l'altra, è molto trattenuto perché, insomma, chi lo conosce sa che si è trattenuto parecchio, c'è qualche zinna, ovviamente non delle protagoniste, tranne la moglie che si denuda più facilmente. Però ecco, forse mi aspettavo una cosa molto più di rottura, e invece probabilmente il suo, diciamo, il film peggiore che ho visto dei suoi, ma non li ho ancora visti tutti, che otto. Ah, ecco, Mr. Lonely non l'hai visto? No, ecco, probabilmente mi dicono che è quello il peggiore, vedremo. Quando... No, non è vero. Vabbè, no, infatti ho letto, ma non so, finché non vedo non credo. Tra quelli che ho visto, questo è... No, era solo per dirti che se questo ti è sembrato molto più bello visivamente cinematografico, Mr. Lonely è un gradino sotto, cioè sta salendo come... È un percorso, sì. Beh, si vede sì. Si è uniformato, tra virgolette, agli stilemi. Ma d'altronde non puoi fare un Gammo o un Julian Donkey Boy a vita. No, però... Io ritengo che stia crescendo molto bene. Per esempio... La scena della rapina, che è tutto un piano sequenza, no? È fatta da Dio, un regista come Gammo, cioè il regista di Gammo non l'avrebbe mai fatto, però l'ha anche messa proprio per dire, guardate che io adesso so fare queste cose, se voglio, perciò sta crescendo, lo fa anche con provocazione, sembra quasi mettertela lì la scena solo per dimostrarti che è capace, e... poi anche sulla serietà, così chiudo, non mi sembra che si prenda sul serio, appunto per quel finale, come fa a prendersi sul serio con un finale del genere? No, non è che si prenda sul serio nel dire, nel raccontare qualcosa, però c'è un intervento metanarrativo, diciamo, lì era un mostrare, e va bene, non puoi fare sempre Gammo, ma chi lo dice? Io non sentivo la necessità di vederlo alle prese con un piano sequenza, lo sai fare bene. Ma si possono fare tanti film come Gammo, e lo stava facendo. Poi, vabbè, arrivi a Trash Humpers, tra virgolette, ti potresti fermare, perché è l'assenza di cinema, è probabilmente la fine di un percorso, poi magari arriverà uno che farà qualcosa di ancora più estremo. Però, ecco, se nel senso, non mi interessa vedere che è un bravo regista, almeno a me. Sono contento che riesca a fare il film che voleva fare, perché da quel che ho letto questo è un po' un sogno che si avvera, perché in qualche intervista si parlava di progetto, insomma... di gioventù che non era riuscito a realizzare, però non va bene, cioè, è anche un buon regista, se però di buoni registi ce ne sono tanti, di registi come quello di Gammo ce ne sono meno, di piani sequenza ce ne sono in abbondanza, è bello vedere che lo sai fare così bene, ma va bene, cioè, mi colpisce meno di una cosa come Gammo. E poi sì, un po' si prende sul serio per quello che dicevo prima, cioè ci metti la voce fuori campo, lo rendi cinematografico e mi racconti qualcosa, mi dici che secondo te questa gioventù è così, si ripete, è quella della MTV Generation, è quella di programmi di questo tipo, va bene, secondo me è più convenzionale come film e in questo ha perso qualcosa per me, tutto qui. Ok, allora direi che possiamo passare ai film più recenti. Tutti e tre mi sembra recensiti da Intrinseco. Ahimè. Parliamo di due horror, ovvero La Madre e Sinister. Della Madre ricordo solo il trailer Mamma. Sì. Hai visto tutto, poi sei a posto. C'è anche Jamie Lannister, però. Sì, è vero. E Gli Amanti Passeggeri di Almodovar, di cui ho letto Delusione a palate. Sì. Quindi non lo so, decidi tu da dove iniziare, insomma. Vabbè, hai tre quarti d'ora. Sì, rapido. Sarò breve. Sì, Luca, avevamo deciso di partire prima dalla Madre perché era piaciuto meno a entrambi, cioè a me e al Monco, visto che l'abbiamo visto anche insieme. Ma sono tanto felice. Perché ritorno da te. Sì, quindi partiamo da questo. Brevemente, è un film, questa è la cosa che secondo me doveva demolire l'entusiasmo. È un scusate un attimo. Pronto? Allora, no, ho detto intanto. Scusate un attimo, stavo rispondendo a una cosa. Era la Madre. No, tappavo il buco intanto. Ok, vabbè, fatto bene, non tappare troppo. Sì, che film è? Di Pudovki. La cosa meno interessante è proprio questa, che si basa su un cortometraggio, cioè questo Andrés Muschietti, credo sia spagnolo, ha studiato in Sud America, chi se ne frega, vuole che lo chiamiamo Andy adesso, e invece no. Tattacchi, ha fatto un brutto film e vaffanculo. È basato su un cortometraggio di 2 minuti che si chiamava Mamà, che poi il film allargato praticamente, perché secondo me non hanno aggiunto nulla, si vedevano queste due bambine in casa e di colpo si imbattevano in questa presenza, un fantasma con l'aspetto molto orientaleggiante, tipico di, sai, l'horror coreano, cinese, giapponese, insomma quegli spiriti lì, capelli lunghi, dita lunghe, volteggiano, tutti uguali. E l'ha notato Guillermo del Toro e ha detto facciamoci un film, ho prodotto già la chiavica di Non avere paura del buio, ho ancora molto da dire sull'argomento maternità, infanzia e fantasmi, è tutto qui. Il film racconta di queste due bambine che dopo che il padre è sbroccato e ha ucciso la moglie, sono rimaste da sole in una casa nel bosco, ricorda il film sulle parodie, vengono cresciuti da una presenza che si chiama Mama, appunto, o Mamà, o almeno questo raccontano. Lo psicologo che le prende in cura, però, insomma, pensa che questa sia solo una difesa, allora le affida al fratello gemello del padre, che è, oddio, non me lo ricordavo, Nicolai Coster-Waldau, che dicevamo prima è il Jamie Lannister di Game of Thrones, e dalla moglie, cioè dalla fidanzata, interpretata da Jessica Chastain, che è il maggiore motivo di interesse, perché è tutta d'archettone, il caschetto corvino, i tatuaggi, una bassista, insomma, ha un look diverso, un personaggio invece solito, perché fa di nuovo la madre, suo malgrado. Vabbè, insomma, questa mamma esiste o non esiste? Sì, si vede subito, non è uno spoiler, quindi non c'è il dubbio, non c'è nulla, è la classica ghost story, non ce lo nasconde, e all'inizio funziona quasi, ci sono queste bambine che sembrano quasi dei ragnetti, delle scimmie, perché sono cresciute, insomma, a carponi, camminano a carponi, saltano come degli animali selvatici, mangiano solo ciliegie, non si capisce perché, non hanno la cacarella, è una cosa che non spiega. C'è un mucchio di ciliegie enorme e loro le mangiano per 5 anni e non hanno mai la diarrea, vabbè. Nessuno parla di questi buchi, plot hole. Insomma, vabbè, questa mamma è un fantasma che vuole continuare a prendersi cura delle due bambine e a un certo punto compare in scena e rovina tutto, sia la storia che il film, perché appunto intanto si mostra e perde tutto l'alone di mistero che deve avere un fantasma in un horror di questo tipo. E poi perché appunto te la sbattono in faccia 20 volte e diventa il classico boogeyman che poi ritroviamo anche in Sinister, che ti deve comparire all'improvviso, ti deve correre contro la telecamera, come succedeva nel cortometraggio, e il film è tutto qui, perché poi parallelamente c'è la solita scoperta del solito, la solita leggenda locale di questo fantasma, dobbiamo scoprire chi è, ma chi lo dice, se non funziona meglio senza sapere troppo, no, dobbiamo vedere tutto il flashback, spiegare tutto, e intanto Jessica Chastain che rimane da sola in casa, e ci dobbiamo spaventare, perché questo fantasma fa scricchiolare le porte, i pavimenti, sono la solita roba, trita ritrita, in più ci vogliono mettere questa storia della maternità raccontata come nelle peggiori storielle hollywoodiane, cioè proprio robetta, io non so, cioè mi ha ricordato tantissimo appunto Non avere paura del buio, che era speculare, cioè anche lì c'era la donna che doveva farsi insomma apprezzare dalla figliastra, diciamo, e poi c'era un finale che ricorda anche quello di questo film, cioè sembra quasi che Del Toro prenda questi film e dica ok, io te lo produco, però fai una sceneggiatura che potrei scrivere io, o la scrive proprio lui, no? Non so. Perché davvero si ripete, adesso vedremo questo Pacific Rim, che se non ci infila anche lì una madre, qualche bambino, perché sì, va bene, era bello Il labirinto del fauno, però uno si rinnova, soprattutto quando sei produttore, magari lascia un po' la briglia sciolta al regista, o se il regista per sudditanza psicologica fa il film che vorresti fare tu, cioè, no, è un peccato, è una roba proprio canonica e noiosa, con qualche bel momento registico, proprio bello, ma come ce ne sono tanti, appunto, non è giusto sollevarlo dal mucchio solo per qualche inquadratura azzeccata, perché sono solo un paio di inquadrature. Davvero non so, c'era un po' di buono all'inizio, ma si perde, per cui niente, bocciato. Beh, da Pacific Rim ci aspettiamo tutti zero linee di dialogo e tanta azione, non credo che ci ficchi le madri, dai. Adesso è stata pubblicata la foto dello Jagger russo che si chiamerà Cerno Alfa. Sulla pagina di Pacific Rim, così, tanto per fare una digressione. Quello giapponese è Coyote Tango, rendiamoci conto. Vediamo almeno ci si diverta un po' in quello. Sì. Ma spero. Sì. Tanto alla fine arriverà la robottona madre, che sarà enorme, gli porterà tutti via tirandoli per le orecchie. Non vi ho detto di lottare sulla terra. Io accetto il mio ruolo di madre adesso, ve lo dico proprio chiaro e tondo, io lo accetto. È così il film, cioè lei non vuole fare la madre e poi pam, arrivano queste due bambine, il fantasma, va bene, devo fare la madre. Vabbè. Esattamente, appunto, come hai detto, come Non ho paura del buio. Era così il titolo, perché tra Non ho paura di... Cioè, sì, mi pare di sì, perché poi c'è un film italiano. Non avere paura del buio, infatti. Non ho paura del buio era quello di Salvadores, no. Vabbè. Io non ho paura. Vedi, sono tutti uguali. Poi quello di Argento, come si chiama? Paura. Non ho sonno. Appunto, vedi, sono tutti lì, non so. Sì, in effetti mi è sembrato di vedere lo stesso film due volte. Cambiavano solo gli attori e la casa, che era diversa, e la madre. Cioè, la madre come spirito lì. Vabbè. Dall'altra parte c'erano... Era un mostro di là, c'era Katie Holmes. Sì. No, ecco, là c'erano gli esserini che rubavano i denti, una roba del genere. Che mangiavano i denti. E qui ci sono queste due bambine che diventano degli esserini che mangiano ciliegie dure, quindi sono veramente lo stesso film. Io non li salvo niente, veramente è stato pessimo. Un'ora e quaranta, quant'è, sprecata, con quei sottotitoli giapponesi. Ah no, quella è un'altra cosa. Magari c'erano nel film, non so, una scelta. Sì, questo pezzo che hanno messo. Ma perché? Non so. Questo pubblico asiatico, vabbè, ho capito, però. Non me lo ricordo neanche più bene. È stato 2 minuti dopo che ho spento, già non me lo ricordavo più. Terrificante. Ma poi anche il finale, vaghi ricordi, veramente orribile. A parte la storia, sì. Non sono una madre, sono una rocchettara, li vedi i tatuaggi, li vedi? Ho anche il taglio sbarazzino, non le voglio queste bambine, va bene, bambine, venite qua. Telefonatissimo. E in effetti il corto durava 3 minuti ed era molto meglio, diceva tutto il corto. Non diamo più soldi a questa gente, soprattutto ai sudamericani, E basta. Ma forse è spagnolo, non lo so, non ci interessa. E chi se ne frega? Sì, comunque Del Toro, soprattutto non dare soldi e basta, no? Sì, Del Toro è talmente grasso che vale tutti e due i Manetti Bros, fa le stesse cose. Sì, con più soldi. Sì, sì, infatti però... Pacific Rim è una specie di remake de... l'arrivo di Wang. Zitto, sta copiando, la gente non se ne accorge, il cinema italiano perde contro questa multinazionale, vabbè. Sì, sì, comunque da dimenticare, veramente non se ne pote più. E passiamo a... passiamo a un altro che è un tantino meglio, ma un tantino meglio del nulla. E qui c'è un po' di antipatia mia perché è un film che parte meglio, parte molto più interessante di Mama. Dicevamo è Sinister o Sinister o Sinister, va bene, di Scott Derrickson, che ricorderete è il regista di L'esorcismo di Emily Rose, che fece parlare un po' di sé come horror. Riconosco, non era malissimo, insomma, me lo ricordo molto meno interessante di come leggo. E poi subito dopo, per non smentirsi, ha diretto il remake di Ultimatum alla Terra, e quindi vabbè, sappiamo insomma chi è questo individuo spietato e senza morale. Ora torna all'horror e dirige questa, non questo POV ma quasi, il protagonista c'è Ethan Hawke, è un cast di sconosciuti o semi sconosciuti. Comunque sì, Ethan Hawke interpreta uno scrittore, e qui c'è già il rimando shiningiano, che è abbastanza pesante, nel senso c'è evidente come ci sia insomma l'influenza di questo film. E, è uno scrittore di libri true crime, praticamente dei romanzi basati su dei crimini reali che lui risolve, quando invece la polizia non è riuscita a farlo, quindi è anche molto odiato dalle autorità. E all'inizio del film si trasferisce in questa casa, senza dirlo ai, cioè, si trasferisce in questa casa dove si è svolto un delitto, ma i suoi familiari non sanno che è proprio quella casa, e vuole scrivere un nuovo romanzo per bissare il successo del primo, che era stato un grande bestseller. E quindi, insomma, appena arrivato in casa, va nella solita soffitta enorme, che ricorda quella di Paranormal Activity, rompe una trave, trova una cassetta di nastri in Super 8 con un proiettore, inizia a guardare, sono dei filmini domestici, un po' strani, sembra che insomma all'inizio li vediamo e ci si chiede ma chi sta filmando, e poi piano piano realizziamo che è qualcuno è fuori dalla famiglia ed è nascosto, e poi man mano vediamo che invece sono vari delitti collegati a quello della casa in cui abita ora Ethan Hawke, in cui qualcuno filma la famiglia che viene uccisa quasi da una mano invisibile, sono delle morti, ecco, questa è una delle cose più belle, sembrano causate da una mano invisibile, da un'entità, comunque che si provochino quasi da sole, specie la prima, che apre i titoli di testa bellissimi, cioè questa famiglia, quella diciamo dell'ultimo delitto, che è tutta in fila sotto un albero con dei sacchetti in testa e una corda al collo. Sull'albero c'è un seghetto che taglia un ramo, questo ramo cade e solleva le quattro persone che rimangono impiccate. È una scena bellissima perché inizia, cioè apre il film, tu ti trovi davanti questo delitto spaventosissimo, anche di Malzano, questa ripresa vecchia, buia, granulosa, cioè una musica sparata a pala che io non ho gradito molto, sarebbe stato più eloquente il silenzio in questo caso. Quindi parte bene, c'è questo uso del POV che in realtà è proprio solo semplicemente l'osservare questi nastri. È davvero efficace, è disturbante, crea angoscia, poi questo è uno di quei film che andrebbero visti, sembra brutto, ma a casa, al buio, al cinema rendono molto meno l'impressione. E poi, niente, in questi video che lui continua a guardare compare una figura, che è poi il classico boogeyman, come lo era Mama nel film precedente, come c'è sempre in Insidious, in qualsiasi horror che venga un po' dalla generazione Paranormal Activity. E non è che sia un male questo, però quando metti la personificazione devi stare attento a quello che fai, devi nasconderla o devi mostrarla in un certo modo, e come per Mama quindi si decide di sbatterlo in faccia allo spettatore. Non succede subito come lì, non succede allo stesso modo, però è fastidioso perché quello che c'era di buono poi viene bruciato dal ricorrere a questi mezzucci, questi meccanismi collaudatissimi dello spavento facile, no? Musica a palla, la faccia che compare, tu dici, ah oddio, per la ventesima volta ci casco, ma non fa paura, è lo spavento, è la cosa più facile. E davvero infastidisce, questo sono stato un po' cattivo nella recensione, mi rendo conto che qualcuno l'ha vista come una stroncatura a tutto tondo, lo è, perché mi ha dato fastidio l'idea di sprecare un soggetto così potenzialmente interessante, ben girato, perché insomma c'è una buona mano dietro, almeno in certi aspetti, delle belle musiche che andavano usate diversamente. E poi boh, è vero, troppo debitore della generazione Paranormal Activity. Ci sono queste riprese notturne, questi fantasmi che vanno a tirare il pigiama di Ethan Hawke che gira per casa. Poi a un certo punto è un'ora di lui che gira per casa. Cioè, il problema è questo, anche una mancanza di idee, di incapacità di tenere un ritmo, di raccontare una storia, perché passata la prima mezz'ora è lui che si spaventa, sente lo scricchiolio, va in soffitta, bam, il colpo, la porta che si sbatte, la famiglia che inspiegabilmente non si sveglia, lui che si beve il whisky, prossimo video, bam, nuovo rumore, cioè è anche un po' ripetitivo, per cui mi dispiace che le doti registiche innegabili di Scott Derrickson siano un po' sprecate in un soggetto che si piega un po' alla moda, alla convenzione. Vorrei vederlo con un soggetto un po' più libero, anche perché questo è abbastanza indipendente. Ho letto che gliel'hanno rifiutato, lui ha rifiutato di farlo con certe case di produzione, l'ha voluto lasciare così, un po' indie, e lo è nell'aspetto, però allora è una sua scelta stilistica precisa, quella di piegarsi alla moda, al cliché, perché ci sono molti cliché. Ed è un peccato, perché non hai soldi, sei un po' più libero, hai un buon soggetto, hai degli attori dignitosi, Ethan Hawke non se la sbriga male, quindi dispiace per questo rispetto a Mamma, perché lì non c'è proprio nulla da salvare, qui qualcosa lo si salva volentieri. Bocciato per un pelo, neanche rimandato a settembre. Sì, vabbè, rimandato a settembre, sì. Va bene, dai, con il detto. Quindi a settembre lo rimettono nei cinema, occhio. No. Che bello, la versione intrinseca sarà. Passiamo allora all'ultimo film. Ma io l'ho visto. Vuole parlare il mondo. Ah, no, pensavo non l'avessi visto. Vai, pensate, non ha visto nulla lui. sì, a proposito, avevi iniziato a parlare Shiningiano, no? Beh, ricordiamolo allora, questo grandissimo documentario, no? In questi giorni potete vedere su Sky Arte Room 237, che è veramente un capilavoro, una serie di analisi clamorose, proprio vi apriranno la testa e gli occhi soprattutto. Sì, la pena martellata e ci sputeranno bene. Sì, come anche un disegnino che si vede nel film. Vero, non era voluto. E, insomma, se molto probabilmente voi avete visto Shining e non ci avete capito niente, probabilmente no, ci avete capito tutto perché è così semplice, però se non ci avete capito niente potete andare ancora più in confusione guardando questo documentario, e insomma vengono tirate fuori delle teorie spettacolari secondo le quali se voi guardate il film al contrario, Jack Torrance in una scena è Hitler perché ha i baffetti, c'è un gigante che pulisce la foresta e poi c'è l'Apollo 11, è stato sul maglione del piccolo Danny, è stato messo apposta perché, come si dice, Kubrick ha girato l'allunaggio, che è anche la teoria più plausibile, ma poi vabbè, l'olocausto, le catombe degli indiani, c'è dentro veramente di tutto, un documentario bellissimo e è registrato peggio delle nostre registrazioni. Sì, sì, davvero, chiacchierano, mangiano il biscotto, vanno a prendere, a cullare il figlio che piange. Sì, sì, geniale. Vanno anche a prendere il figlio a scuola mentre regista. Sì, c'è sotto dei rumori bellissimi. È veramente la più bella commedia su Kubrick che si potesse fare. O direte Shining. E poi vabbè, la chiudo qui sui consigli. Altro consiglione, se siete fan di horror, di case stregate, guardatevi Hausu, che è un horror giapponese del 77, che è forse il più bello horror di tutti i tempi, anche intrinseco si sbilancia, qua. Sì, lui è appassionato. Non è un horror, diciamo, lo è nell'intento, forse, è un delirio, per cui, come film di Corinne è la negazione del cinema, cioè, è proprio fregarsene di tutto, secondo me, non come horror, ma è un bellissimo film, davvero, è proprio l'anarchia delle immagini, potrebbe essere dadaista, io mi sbilancio in questo senso. Però questo è un consiglio vero, guardatelo perché è veramente stupendo. Invece a parlare di horror minori come Sinister, sì, in effetti è ridondante e ripetitivo, anche perché non si spara ai filmini tutti all'inizio? No, infatti, appunto, sono roba di 8 mm, se va bene durano 10 minuti lui, no, bisogna guardarli, riguardarli, si fa due palle così anche lui, in effetti, per quello beve, non è il trauma. perché alla fine la struttura è: mi guardo un filmino, passo la notte insonne, bevo, sento rumori, mi guardo un filmino, passo la notte insonne, è tutto così, quindi è ovvio che diventa ripetitivo alla fine. Scrive una riga, questo è un cazzo. Esatto. Però è un montatore bravissimo. Sì, è vero, sì. Guarda su Google e impara come restaurare gli 8 mm. Ma oh! Ha lì una pinza catozzo. Scusa, ti interrompo di nuovo, ma qualcuno ci ha voluto vedere anche un'immagine della dipendenza, non lui che beve, monta, no, non ce la fa a smettere di guardare queste immagini. Ma perché bisogna sempre sviscerare la scena, anche quando non è necessario? Vabbè, ci hanno visto della profondità nel rapporto madre-figlia in sì. Madre, quindi... Aliens è un film sulla maternità molto più efficace. Sì, è vero. E vabbè, Sinistra, io sono meno cattivo di te, ne avevamo già discusso, principalmente perché sì, di solito massacro questo tipo di trame, perché già strasentite, poi mandate a puttane con la classica, il classico inserimento a forza del paranormale, del boogeyman che c'è in ogni film, ormai ha rotto le palle. Però questa volta ho detto, sono partito proprio con le aspettative più basse possibili, ho detto vabbè, sarà una merda, la trama sarà, che peggio di così non si può, però sono stato stupito positivamente da un'atmosfera comunque buona. Dicevo, sempre con te, che ha un'ottima atmosfera per tutto il film e fa veramente paura, in effetti sì, se stai al buio con le cuffiette... funziona al cinema, probabilmente no, io l'ho visto appunto al buio e non al cinema, cioè, capito? E... no, il cinema è al buio. no, l'ho visto all'aperto. Okay. Vabbè, e stavo dicendo che atmosfera. È una bomba questo Spring Breaker, no. E invece quando vuol fare paura, come dicevi te, lo spaventone, la musica che si alza, la facciona che ti si para davanti, fa ridere, non, a parte i bambini, che quali bambini? Niente, nessun bambino, a parte quelle cose lì che sono molto... cioè non fanno paura, quando invece si spreme di più possibile per farti paura non ci riesce. Quando non lo fa apposta ci riesce, sì, che era anche un po' quello di Emily Rose, eh? Aveva una bella atmosfera, però quando voleva far calcare di più la mano dicevi vabbè, no, sembra, è un regista che strano, anzi forse a livello degli altri, nel senso quando crede di fare di metterci la trovata invece sbaglia, eh? Invece quando costruisce l'atmosfera senza pensare chissà cosa invece fa un ottimo lavoro. Boh. Sì, purtroppo ha fatto quella merdata del remake di Ultimatum alla Terra, lo possi, no? Però sì, sembra un regista promettente, se non mandasse tutto allo sfascio con queste trovate, che sì, classico cliché, farebbe dei film migliori, vedremo il prossimo, se, non so, non ha già un progetto, no, non penso. Non che io sappia, non, ha scritto un film con Atome Goyan, mi ricordo, quel regista, sì, insomma, però non so se è horror. No, è un regista francese. Comunque vedo ora che ha in mano quattro film e appunto uno scritto è Devil's Knot, che è quello di Atome Goyan, e boh. Vabbè. Un Poltergeist che non so se è remake. Madonna. No, basta remake. Pietà. Va bene, allora direi che possiamo passare all'ultimo film di oggi. Che questo hai visto, eh? Sì, l'ho visto, guarda. E pure sulla locandina. Gli amanti passeggeri di Pedro Almodovar, e ce ne parla sempre Intrinseco, che ha monopolizzato la puntata. Cioè, tu non vedi nulla. C'è anche il Monco. Lui ha parlato all'inizio, ha trovato un modo per dire qualcosa di costruttivo, invece no. Non vado al... Ha trovato il modo di dire qualcosa di costruttivo. È vero. Prego. Di che parliamo? Del film di Almodovar. Gustavo Almodovar. Vabbè, non capiscono senza il video. Vabbè, saremo brevi perché è stata una delusione, come hai anticipato. No, vabbè. No, per me che ho sempre aspettative sproporzionate, un po' sbaglio. Va bene, l'ultimo film di Pedro Almodóvar è una commedia, quindi un ritorno alle origini, perché comunque lui esordisce con delle commedie, ricordiamo le più famose, così le consiglio anche, Donne sull'oro di una crisi di nervi, L'indiscreto fascino del peccato, insomma ce ne sono molte, ma in realtà tutti i film di Almodóvar sono belli, io non ho ancora trovato uno che mi ha fatto dire meh, ed è arrivato Gli amanti passeggeri a smentirmi. Intanto, ecco, veniamo da un periodo di d'oro per Almodóvar, che ha girato quel capilavoro di La pelle che abito, io lo adoro e continuo a ritenerlo un grandissimo film, forse il suo migliore tra i migliori, dunque quello uno dei migliori tecnicamente sicuramente, e torna sui suoi passi, dicevo, una recensione è sempre un po' rischiosa e infatti lo è anche in questo caso, sembra un po' un'operazione nostalgia anche per come poi viene usata la commedia nel film. Dunque la storia brevemente, che tanto è davvero essenziale, è quella di un volo, il volo Peninsula, non ricordo il numero, che per un'anomalia tecnica deve rimanere in volo sopra Toledo invece di dirigersi verso Città del Messico, e quindi mentre l'aereo rimane sospeso in cerca di un aeroporto in cui atterrare, che non si trova inspiegabilmente, ce ne sono tanti ma sono tutti occupati, a bordo si scatena il panico, quindi il capitano e l'equipaggio decidono di sedare la classe economica turistica, come si chiama, insomma il popolo, insomma, e invece la business class per qualche ragione viene lasciata sveglia, e dentro questa sezione dell'aereo ci sono una serie di personaggi, uno più strano dell'altro, c'è il pilota Antonio Della Torre, che era uno dei due pagliacci in Ballata triste della trompeta, uno dei tre steward è Carlos Areses, che era il pagliaccio triste sempre in Ballata triste della trompeta ed era anche in qualche film di Almodóvar, poi c'è il terzo steward, che è Ugo Silva, ma non ricordo cosa ha fatto, c'è, oddio, come si chiama, un'attrice sempre usata da Almodóvar, oddio, quella di Tutto su mia madre, non mi viene il nome, Cecilia Roth, poi c'è una comparsata di Banderas e Penelope Cruz all'inizio, ma sono proprio dei personaggi marginali che poi non si vedono più, sembra quasi un modo per dire largo ai volti meno noti, i volti della commedia soprattutto, e insomma questi personaggi si litigano un po' la situazione, gli steward tentano di mantenere la calma con gli alcolici e la droga, i piloti cercano di mantenere il controllo e i passeggeri si scannano, no? Cecilia Roth è una escort, comunque una dominatrix che se la fa con i potenti e quindi li ricatta con dei nastri che lei ha registrato, fa pensare un po' all'Italia, no? Le escort e i potenti, e poi c'è lo speculatore edilizio che ha costruito un aeroporto e sta scappando in Messico, l'attore Tom Verdefam che seduce e abbandona, insomma c'è un po' l'alta società europea, quindi è anche un film che insomma nella sua metafora sociopolitica ci è abbastanza familiare. Niente, questi personaggi delirano, fanno casino, gli steward fanno battute sull'omosessualità, anzi battute, parlano di omosessualità in modo molto diretto, di pompini, cazzi e droga tirata fuori dal culo, insomma si asciugano lo sperma dalla bocca, è una roba abbastanza provocatoria e fa venire in mente l'Almodóvar prima maniera, quello di appunto L'indiscreto fascino del peccato, che era ambientato in un monastero in cui le suore si dedicavano al peccato per conoscerlo, quindi spacciavano droga, scrivevano romanzi pornografici, era molto surreale, di rottura, e qui c'è il ritorno al passato. Il problema, se vogliamo, il difetto, quello che almeno a me è piaciuto, intanto non so, io ho notato una mancanza di ritmo, ma forse deriva un po' dall'ammosciamento, dalla delusione, quindi su questo non mi sbilancio, però ecco, manca proprio di passione, comunque manca di quella vitalità che rendeva tanto divertenti le prime commedie. Davvero molto posato come ritmo e come comicità, c'è la volgarità, c'è la cosa che dovrebbe scioccare e che adesso forse sciocca un po' meno che negli anni 70, cercano di tenerti vivo con questi mezzi, con lo shock culturale che per molti spettatori ci sarà stato. Però non so, io sarà che sono più abituato al suo cinema. Non riuscivo a divertirmi, non riuscivo a ridere, c'è qualche battutina simpatica, c'è qualche soluzione divertente, i personaggi sono quelli tipici del suo cinema, il colore anche solo all'interno dell'aereo, cioè è proprio Almodóvar al 100%, il problema è che manca qualcosa. Io l'ho individuato nella recensione, ho interpretato come un aver perso il contatto con le origini. Forse per questo lui voleva tornare alla commedia, non sente di aver abbandonato un po' le sue origini cinematografiche, però ecco, io dico, non è un male questo, non è un male crescere come artista, fare film come Gli abbracci spezzati, La pelle che abito, cioè, sono l'evoluzione di un artista, di un autore. E il fatto di non riuscire più a rifare quello che facevi bene una volta non è un male, è un fatto che forse sei cresciuto, sei un regista diverso, stai bene dove stai, perché devi ritornare sui tuoi passi, recuperare qualcosa che non funziona più? E anche qui c'è, potrebbe essere un'altra ragione. È un film che è vecchio, cioè per noi italiani magari non lo è, perché sentire parlare così apertamente, così spigliatamente di omosessualità, di sesso, di droga, ci colpisce, almeno colpisce una parte del pubblico italiano, però questa roba lui la faceva negli anni 70. Forse per appunto il problema sta qui, cioè io rivedo un film che funzionava negli anni 70, adesso dico sì, va bene, ma perché non fai qualcosa di nuovo, qualcosa di potente come La pelle che abito, così incompreso e pure così bello nonostante tutto. E boh, non so, secondo me manca di mordente, manca di vita, cioè non c'è, manca quel che, quella cosa che ti fa dire cacchio che bello. E nel commedia è importante, credo, no? Devono prenderti, devono conquistarti subito. Io non ci sono riuscito, non mi ha preso, non mi sono fatto conquistare. È un buon film, perché comunque secondo me è il peggiore Almodovar, è il peggiore che ho visto sicuramente, e li ho visti praticamente tutti, il che lo rende comunque un film più che passabile, solo che insomma speravo qualcosina di meglio, una delusione forte in un certo senso. Ma... E passo la parola al Monco. Sì. Monk. Grazie Ugio. Yeah. Sì, effettivamente è il peggior Almodovar, anche se io ne ho visti meno di te, però appunto erano tutti bellissimi, sono piaciuti, tanto che molti li ho comprati in DVD, perché sono davvero dei bellissimi film da tenere, e soprattutto quando arrivi da quei due filmoni veramente, che erano Gli abbracci spezzati e La pelle che abito, arrivi con questo, posso capire quanto vuoi, che vuoi tornare alle origini, che vuoi fare la commedia, però da un regista come l'ultimo Almodovar doveva uscire una commedia di sicuro migliore. Questo mi è sembrato un'imitazione di Almodovar e del primo Almodovar. Sembra tanti di quei registi, omosessuali o no, che vogliono fare la commediola con gli omosessuali. Quindi battute spinte, volgarità a palla, provocazioni facilissime, perché basta mettere i due ricchioni che parlano di staffa, di cazzo, e è ovvio che lo spettatore medio è lì che è scomodo sulla sedia. Ma non c'è niente dietro, hai ragione te a dire che non ha ritmo, sembra un film fatto di battutine del cavolo. Appunto una imitazione, lo poteva fare un qualsiasi regista ed era, a detta di tutti, una cazzata questa. Lo fa Almodovar, invece legge un mucchio di recensioni positivissime. Mi ha veramente deluso, sì. Partivo con basse aspettative, perché dopo aver visto il trailer, che può essere ingannoso quanto si vuole, però la canzoncina con gli omosessuali, sì, sono un po' bigotto da questo punto di vista, ma non omofobico. Però la canzoncina così, le battutine, sai già cosa vai a vedere, insomma, quindi non mi aspettavo granché. Poi che dire, non mi è piaciuto che sembra che ha inserito quella sequenza con la storia, la sottotrama dell'attore bellissimo, come dice la sua, con la sua condominia. E poi hai visto chi è? Chi, la vicina o lui? No, l'attore, è quello di Il crimen perfetto, tu l'hai visto, sì. Ah già, è vero, sì, è vero, lui, è vero. È un po' invecchiato, ma lui, sì. Ah. Sì, invecchiato parecchio. Molto. Vabbè, comunque non mi è piaciuta quella, perché è forse la parte migliore, molto dell'Almodovar ultimo periodo, però inserita lì a cazzo di cane, non saprei un altro modo di definirla. Sembra che di solito si fa il dramma con alcune parti di commedia, qui invece è la commedia con questa particina di dramma, ma veramente infilata malamente, e poi con quel finale che i due che si ricongiungono ma non si ricongiungono e si ricongiungono ma non si ricongiungono, così non è spoiler. Non lo so, non riesco a trovargli granché di positivo, e più ci penso, all'inizio gli avevo dato un 6 più o meno su MDB, ma così, tanto per dargli il voto, ma più ci penso più trovo difetti e cose negative. Veramente un pessimo Almodovar, dispiace, perché sì, probabilmente è un problema di sceneggiatura comunque, sì. No? L'ho individuato così perché c'è, scusate un momento il telefono. Porca vacca. Pronto? Pronto? La canna. Pronto? Vabbè, tappo. Ecco. Ci sono. dicevo, secondo me è un problema di sceneggiatura, anche quello che dicevi tu, la scena inserita. Sembra, è scritto male, ecco, le gag, sembrano gag, non una commedia. La commedia e le gag sono una cosa diversa. Ci sono le gag, ma non c'è solo quello. Sembra una serie di scenette separate. Sai, loro nella parte delle hostess, degli steward che fanno le loro battute, poi uomini in cabina, poi tra i passeggeri, tutto un po' slegato, e poi appunto c'è questa scena che dicevi tu, che rompe diciamo l'illusione, siamo a terra di colpo, perché c'è una cosa anche abbastanza, non dico inconcludente perché completa uno dei personaggi, però è, sì, sembra, sai, non riesca a starci qui dentro, neanche lui forse sente più a suo agio con questo cinema. Sente di e allora scappa dall'aereo e tira fuori questa scena che effettivamente è bella, ricorda molto Gli abbracci spezzati come, insomma, storia d'amore, dramma, come lo vogliamo chiamare, anche se anche la parte più divertente, perché c'è la suicida, quella che tenta il suicidio, Paz Vega, poi c'è la bellissima Blanca Suarez, che è stupenda, negli occhi pazzeschi, e c'è quella scena del telefono che è molto divertente, no? Lei che si ritrova il telefono nella borsa, risponde, dice sono io, ti chiamo dall'aereo, e lei, che forse è un po' tontolona, dice allora me l'hai tirato tu il telefono, è stupida, ma lì ti strappa un sorriso, cosa che nel resto del film per me non è riuscita a fare. Sembra, ecco, scritto da una persona poco ispirata. Il problema è, se proprio devo individuarlo, è nella scrittura, cioè non vedo la vitalità. Poi sì, c'è questa metafora, la citiamo per dovere di cronaca, ma questa cosa della lettura, la Spagna di oggi, il popolo dorme e i ricchi si litigano la sicurezza del paese, che non sa dove atterrare. Va bene, sì, c'è perché l'ha detto lui, per cui la critica, insomma, i siti tipo My Movies e come simili a ruota ripetono, e anch'io, è vero, insomma c'è, però non è che lo devi salvare perché c'è la metafora e perché te l'ha indicato col dito il regista. È vero, cioè è interessante, lo rende un pochino più interessante, ma davvero non mi spiace, per la sudditanza verso l'autore, a me piace, è uno dei miei registi preferiti, però non ce la faccio, magari non lo stronco del tutto, come forse meriterebbe, però non mi piace, ecco, anche questo, anche perché poi il regista dice, ah bene, la critica l'ho apprezzato, lo capisce, rifaccio la commedia. No, non diamogli indicazioni sbagliate, non facciamogli capire male, deve continuare quello che stava facendo. E, insomma, se deve proprio riprovarci con la commedia, lo faccia con qualcosa di nuovo, perché imitare se stesso, come diceva il Monco, ti fai il verso da solo, poi, e l'effetto è quello che è. Poi non so, leggo di omosessuali a cui è piaciuto un sacco, io non so, cioè omosessuali, comunque, su Twitter la reazione del pubblico omosessuale è positiva, c'è anche la concia di cui parlavamo, forse tornando da questo film, che è ovviamente entusiasta, perché il film provoca, vabbè, ma un omosessuale, uno che conosce l'argomento, conosce l'attrito che provoca nel pubblico, dovrebbe chiedere un po' di più, soprattutto da uno che di queste cose ne parla da 30 anni, è molto meglio, in modo molto più interessante, non so, peccato. Poi, difetto principale, quello che hai detto te, è una commedia e non fa ridere, si strappa due risate, è una commedia, non va bene, puoi girarla, a parte che le commedie non sono mai registicamente chissà che cosa, il punto è far ridere, far la gag che ti strappa il sorriso, qui appunto la scena che hai citato te e poi quella con l'escort al telefono con la sua segretaria che sì, gli dice sì. Ma ti stanno attentando? Ecco, quella è l'unica, se non fa ridere il film crolla, questo è il maggior difetto. Sì, che poi i suoi non sono le commedie che fanno morire dal ridere, ecco, le prime, non sono di quel tipo, però sei lì vivo, ti senti provocato, no? Donne sull'orlo di una crisi di nervi è meno provocatorio, tra virgolette, ma è vivacissimo. Se sei lì, sei in un appartamento ancora al chiuso, ecco, forse anche qui c'è un tentativo di ripetere, sei in una stanza, questa donna, una valigia, una storia semplicissima, eppure sei lì e dici ancora, ti diverti, ti saziano questi personaggi, forse gli servono più personaggi femminili, con gli omosessuali nella commedia si trova meno a suo agio, non lo so, sto deducendo io, ma non credo. Ma perché forse anche i personaggi femminili hanno più profondità, invece gli omosessuali li ha trattati come macchiette, qui è questo che è strano, perché lui comunque è sempre stato molto delicato nel tratteggiare, no? C'è un film come La Maleducazione, che comunque molti non hanno capito, perché è stato abbastanza criticato, invece anche cinematograficamente è davvero interessante, vabbè, non voglio dilungarmi. In quei film si vede che insomma, li tratta con il guanto, non per paura, ma perché sa quello che fa. Qui è anche la recitazione, questi attori che gesticolano, fanno gli omosessuali, fanno i froci, non in senso cattivo, ma il personaggio del frocio, la checca, quella eccessiva, e quasi non ci credi, perché dice, su, lui li ha sempre fatti un po' così gli omosessuali, ma e qui sono un po' posticci, sembrano proprio appunto quello che vedi nelle commedie di quelli che tentano di imitare. Anche poi c'è quell'attore, adesso non mi vengono i nomi, Javier Camara, quello che fa Oser, diciamo il leader del gruppo, che è quello di Parla con me. E lì faceva l'omosessuale, non era omosessuale, che poi il personaggio amava la donna in coma, però era sospettato dagli altri di essere omosessuale, perché aveva delle movenze, un modo di parlare, poi era anche il doppiatore, se non sbaglio lo stesso, ma lavorava meglio, e tu vedevi e dicevi, ecco, questo è un omosessuale che magari reprime, o comunque è realistico, è un personaggio su cui crederesti, invece no, lo stesso attore qui non riesce a fare la stessa cosa, per cui è davvero una cosa contagiosa, no? Sono un po' tutti meno ispirati, e, sì, boh, non so, davvero deludente sotto tutti i punti di vista. È peccato. E vabbè, insomma, allora diciamo che possiamo chiudere qui questo 25esimo episodio di Film Busters. La settimana prossima uscirà il buttare giù, Ah no, io sono triste. la settimana prossima, ovvero no, questo giovedì, non la settimana prossima, questo giovedì esce l'ennesimo blockbuster targato Hollywood, ovvero Il Cacciatore di Giganti. Si chiama così? Sì. Il Cacciatore? Ah, vabbè. Di Bryan Singer, la schiaffa. Sì. Di Bryan Singer, intanto un cellulare ci sta molestando. E mi sembra The che... Host, sì, però dicevo la settimana quella successiva è già più entusiasmante perché c'è il nuovo film con Ryan Gosling protagonista, Come un tuono. Ah, sì. Diretto da non mi ricordo chi. E mi sembra esca anche Hitchcock, la cui recensione è stata già prenotata dal Monco da tempo immemore. Sì. Esce anche Jimmy Bob diretto da Walter Hill. Quella prenotata da te. Sì. Sì. Oh, vabbè, almeno c'è Walter Hill, che con gli action ci sapeva fare, chissà. Uscirà anche l'ennesimo film con protagonista Omar Sy, ovvero due agenti molto speciali. E, insomma, non lo so, per quanto mi riguarda sto evitando i film con lui protagonista perché la campagna marketing verte sempre sul fatto che lui ha partecipato a quel film che adesso però non mi ricordo il titolo. Quasi Amici. Aiutatemi. Quasi Amici, esatto. E niente, c'è anche la trasposizione del libro di Salman Rushdie, sì? Fifi della Mezzanotte. Poi... c'è un film che io e il Monco aspettiamo un sacco, sì. Marsupilami. Marsupilami, l'adattamento del cartone famosissimo, Marsupilami, ma dico, me lo ricordo, era abbia una degna distribuzione, sì. G.I. Joe, cioè con la chiavica di G.I. Joe con Bruce Willis, madonna santa, ma soprattutto Un giorno devi andare, Il ritorno di Dritti, che immagino uscirà in un cinema, uno e mezzo anzi, lo fermano a metà primo tempo, e quello speriamo di vederlo perché sembra bello, con la bellissima, non mi viene il nome di lei, Jasmine Trinca, la Jasmine Trinca, esatto. Sì, ne parlavano a Hollywood Party, ma c'era anche dritti da Fazio, però non ho visto, perché di solito Fazio appunto fa vedere tutto il film, no? E in questo caso non ho guardato, non so se ha smesso questa abitudine orribile, fa vedere tutti gli spezzoni, comunque c'era dritti, ne parlava, sembrava molto interessante, lui era entusiasta. È stato bello quando andò Muccino, no? Perché c'è Fazio che balbetta come modus, insomma, non sa perché lui parla balbettando. Muccino che balbetta di suo e era evidentemente ubriaco durante quella puntata perché cercava di difendere il film con Gerard Butler, di cui non ricordo il titolo. È stato tutto un balbettio involontario, volontario, però... molto simpatico, non si è capito niente di quella puntata. Come una catapulta. Come una catapulta, esatto. Guardate Mario. Ma comunque non è morto nessuno, ma sta morendo Karen Black, diciamo. Ah, meno male. Vabbè, dipende dai punti di vista, insomma. Chi odia lo strabismo probabilmente sarà d'accordo con te. Comunque sta morendo di cancro ed è... cioè, sta morendo, comunque è malata terminale, non si può curare, c'è una petizione online, c'è una donazione su internet promossa da Rob Zombie, è molto strano. Se volete donare dei soldi per salvare Karen Black, io ve l'ho detto, non ditelo a nessuno, se no fa niente. Sarà anche meno importante di Karen Black, però sta morendo anche l'attore che interpreta il boia di Game of Thrones, Sir Aileen Payne, e di un cancro al pancreas che è stato diagnosticato nella fase finale, quindi... però lui ha deciso di non curarsi. Chi è il boia? Quale? Chi? È quello che... vabbè, facciamo lo spoiler più grande della prima stagione. No, boh, c'è un personaggio che c'era già o è nuovo? Sì, senza la lingua e che taglia la testa. Non me lo ricordavo. Dai. Ricordo che il mastino, no? Quello l'altro. No, allora boh, non me lo ricordo. E il boia reale, vabbè, riguardate le puntate, perché insomma... Ah, ma quello che poi fa... ah, ok. No, non ce l'ho presente, ma ho capito qual è, vabbè. Madonna, vabbè, per chi se ne frega, personaggio minore. Sì, però, infatti, insomma, vabbè, per aggiungere un po' di pepe alla discussione. Non so. Da morì. È morto anche un po' Almodovar, insomma. È morto il buon cinema. Morto il Papa, no, l'abbiamo cambiato. È vero, quante cose sono cambiate mentre eravamo via. Un governo, un Papa... Infatti, il governo ancora non ce l'abbiamo. C'è un tempo per cambiare il nuovo governo, perché tanto... Intanto c'è il Monco che ogni 3x2 pubblica qualcosa su Facebook contro il Movimento 5 Stelle. Sì. li odia. E vabbè ragazzi, allora ci risentiamo al prossimo episodio, sperando di avere un governo sotto i piedi, e salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti dal gruppo Baruffa. Il gruppo Baruffa che è stato ignobilmente insultato da Intrezzo. È morto, perché da quando è stato stroncato in seguito alla recensione di Spring Breaker sono spariti. Di solito rispondo, ciao, grazie dei consigli. No, sono spariti. Hanno più voti i miei insulti su YouTube del video, cioè, stranissimo. No, visto che siamo in tema, auguriamogli il cancro, non so. Madonna, santa. A tutti e due. Sì. Dicevo, rendiamo grazie ai nostri fan su Facebook che ci hanno permesso di raggiungere la quota di 200 mi piace. Adesso si paga, eh? Abbiamo raggiunto i 200 e si paga. È solo merito nostro, andate a cagare. E questa è la chiusura degna.